ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. 22 settembre. Bisogna vivere con se stessi come con un popolo intero. Allora si conoscono tutte le qualità degli uomini, buone e cattive. E se vogliamo perdonare agli altri, dobbiamo prima perdonare a noi stessi i nostri difetti. È forse la cosa più difficile. Come constato così spesso negli altri, e un tempo anche in me, ora non più. Sapersi perdonare per i propri difetti e per i propri errori. Il che significa anzitutto saperli generosamente accettare. Vorrei proprio vivere come i gigli del campo. Se sapessimo capire il tempo presente, lo impareremo da lui a vivere come un giglio del campo. Una volta ho scritto in uno dei miei diari: vorrei poter tastare i contorni di questo tempo con la punta delle dita. Ero seduta alla mia scrivania, allora, e non sapevo bene come accostarmi alla vita perché non l'avevo ancora toccata dentro di me. Ho imparato a farlo mentre ero seduta qui. Poi, d'un tratto, sono stata scaraventata in un centro di dolore umano, su uno dei tanti piccoli fronti di cui è disseminata l'Europa. E là, sui volti delle persone, su migliaia di gesti, piccole espressioni, vite raccontate, su tutto ciò ho improvvisamente cominciato a leggere questo tempo come un insieme compiuto, e non solo questo tempo. Avevo imparato a leggere in me stessa, e così ero in grado di leggere anche negli altri. Era proprio come se le mie dita sensibili sfiorassero i contorni di questo tempo e di questa vita. Com'è possibile che quel pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato, dove si riversava e scorreva tanto dolore umano, sia diventato un ricordo quasi dolce? Che il mio spirito non sia diventato più tetro in quel luogo, ma più luminoso e sereno. A Westerbrook ho letto un tratto del nostro tempo che non mi sembra privo di significato. Ho amato tanto la vita quando ero seduta a questa scrivania ed ero circondata dai miei scrittori, dai miei poeti e dai miei fiori. E là, tra le baracche popolate da uomini scacciati e perseguitati, ho trovato la conferma di questo amore. La vita in quelle baracche piene di correnti d'aria non contrastava affatto con la vita in questa camera protetta e tranquilla. Non sono mai stata tagliata fuori da una vita, per così dire, passata. Per me esisteva solo una grande, significativa continuità. Come potrò descrivere tutto ciò e far sentire quanto la vita sia bella e degna di essere vissuta e giusta, sì, proprio giusta? Forse Dio mi concederà quelle poche semplici parole, parole che siano anche colorite, appassionate e serie, ma soprattutto semplici. Come posso rappresentarlo con poche tenere, leggere e robuste pennellate, il piccolo villaggio di baracche tra cielo e brughiera? Come posso far sì che anche altri leggano dentro a tutte quelle persone? Persone che devono essere decifrate come geroglifici, tratto dopo tratto, finché non ci si trova davanti a un unico, grande e comprensibile insieme, incorniciato da cielo e brughiera. Una cosa è certa: non potrò mai scrivere le cose come la vita le ha scritte per me, in caratteri viventi. Ho letto tutto, con i miei occhi e con tutti i miei sensi, ma non saprò mai raccontarlo allo stesso modo. Potrei anche disperarmi per questo, se non avessi imparato che dobbiamo accettare le nostre forze insufficienti. Però con queste forze dobbiamo veramente lavorare. Cammino accanto agli uomini come se fossero piantagioni, e osservo quanto è cresciuta la pianta dell'umanità. Sento che questa casa comincia a scivolarmi giù dalle spalle ed è un bene che sia così. Il distacco si compie definitivamente e con molta cautela e malinconia, ma anche con la certezza che è un bene e che non può essere diversamente, lascio che tutto scivoli giorno dopo giorno. E con una camicia indosso e una nello zaino, com'era già quella fiaba di Corman sull'uomo senza camicia? Un re cercava per tutto il reame la camicia del suo suddito più felice e quando ebbe finalmente trovato quell'uomo si scoprì che non aveva camicie. E con quella minuscola Bibbia, forse posso portarmi anche i vocabolari russi e i racconti popolari di Tolstoi, e forse ci sarà anche posto per un volumetto di lettere di Rilke. C'è anche quel maglione di pura lana di pecora, lavorato a mano da un'amica. Quante cose possiedo ancora, Dio mio. E una persona come me vuole essere un giglio del campo. Dunque, con quell'unica camicia nello zaino, me ne vado incontro a un avvenire sconosciuto. Così si dice. Ma sotto i miei piedi girovaghi, non c'è forse dappertutto la stessa terra? E lo stesso cielo, ora con la luna, ora col sole, per non parlare di tutte le stelle, non si stende forse sopra i miei occhi rapiti? Perché si dovrebbe parlare di un avvenire sconosciuto? 23 settembre. Class, non si combina niente con l'odio. La realtà è ben diversa da come ce la costruiamo noi. Prendi quel nostro assistente. Lo vedo spesso nei miei pensieri. La cosa che più colpisce in lui è il suo collo dritto e rigido. Odia i suoi persecutori con un odio che suppongo sia giustificato. Ma anche lui è un uomo crudele. Sarebbe un perfetto capo di un campo di concentramento. L'osservavo spesso mentre stava all'ingresso, quasi fosse là per acchiappare i suoi compagni ebrei scacciati. Non era mai uno spettacolo molto consolante. Mi ricordo ancora il modo con cui aveva dato a un bambino di 3 anni che piangeva due sporchi pezzetti di liquirizia. Glieli aveva buttati sulla tavola di legno, dicendogli paternamente: «Sta attento a non sporcarti il muso». Ripensandoci, credo si trattasse di goffaggine e di timidezza piuttosto che di mala grazia. Semplicemente non riusciva a trovare il tono giusto. Ma era anche uno dei giuristi più brillanti in Olanda. E i suoi articoli così intelligenti erano formulati alla perfezione. L'uomo che si era impiccato all'ospedale, ricordarsi di cancellarlo dallo schedario. Ogni volta che lo vedevo girare tra la gente con quel collo dritto, lo sguardo dispotico e la sua eterna pipetta, mi veniva da pensare: gli manca solo una frusta in mano, gli starebbe magnificamente bene. Ma non ero risentita con lui, mi interessava troppo. In certi momenti mi faceva una pena terribile. Aveva una bocca così insoddisfatta, o meglio, così infelice. Era la bocca di un bambino di 3 anni che non è riuscito a imporsi a sua madre. Nel frattempo lui aveva passato la trentina. Era diventato un bell'uomo, noto giurista e padre di 2 figli, ma quella bocca da bambino insoddisfatto di 3 anni gli era rimasta tale quale, anche se naturalmente era diventata un po' più grossa col passare del tempo. A guardarlo bene, non era affatto attraente. Vedi, Klaas, quell'uomo era pieno di odio per quelli che potremmo chiamare i nostri carnefici, ma anche lui sarebbe potuto essere un perfetto carnefice e persecutore di uomini indifesi. Eppure mi faceva tanta pena. Riesci a capirci qualcosa? Non aveva mai contatti amichevoli coi suoi compagni e se questo succedeva agli altri lui li guardava di sottecchi con un'espressione così affamata. Potevo vederlo e osservarlo in continuazione. In quel luogo si viveva senza muri. Più tardi un collega che lo conosceva da anni mi aveva raccontato alcuni particolari della sua vita. Nei primi giorni della guerra si era buttato in strada dal 3° piano, ma non era riuscito ad ammazzarsi, come doveva pure essere sua intenzione. In seguito ci aveva riprovato, questa volta sotto una macchina, ma anche questo tentativo era fallito. Poi aveva trascorso qualche mese in un istituto per malattie mentali. Era paura, tutta paura. Era un giurista così brillante e acuto e nelle discussioni accademiche aveva sempre l'ultima e decisiva parola, ma nel momento decisivo era saltato giù dalla finestra. Sua moglie doveva camminare per casa in punta di piedi e lui faceva delle scenate ai figli atterriti. Mi faceva tanta, tanta pena. Che vita è mai questa? Class, volevo solo dire questo. Abbiamo ancora così tanto da fare con noi stessi che non dovremmo neppure arrivare al punto di odiare i nostri cosiddetti nemici. Siamo ancora abbastanza nemici fra noi. E non ho neppure finito quando dico che anche fra noi esistono carnefici e persone malvagie. In fondo, io non credo affatto nelle cosiddette persone malvagie. Vorrei poter raggiungere le paure di quell'uomo e scoprirne la causa. Vorrei ricacciarlo nei suoi territori interiori, Klaas. È l'unica cosa che possiamo fare di questi tempi. Allora Klaas ha fatto un gesto stanco e scoraggiato e ha detto: «Ma quel che vuoi tu richiede tanto tempo. E ce l'abbiamo, forse?» Ho risposto: «Ma quel che vuoi tu si lavora da 2000 anni della nostra era cristiana, senza contare le molte migliaia di anni in cui esisteva già un'umanità. E che cosa pensi del risultato, se la domanda è lecita?» E con la solita passione, anche se cominciavo a trovarmi noiosa, perché finisco sempre per ripetere le stesse cose, ho detto: «È proprio l'unica possibilità che abbiamo, Klaas. Non vedo altre alternative. Ognuno di noi deve raccogliersi e distruggere in se stesso ciò per cui ritiene di dover distruggere gli altri. E convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale. E Klaas, vecchio e arrabbiato militante di classe, ha replicato, sorpreso e sconcertato insieme: «Sì, ma questo sarebbe di nuovo cristianesimo». E io, divertita da tanto smarrimento, ho risposto con molta flemma: «Certo, cristianesimo. E perché poi no? Che io possa rimanere sana e forte». Quella baracca, talvolta al chiaro di luna, fatta d'argento ed eternità, come un giocattolino sfuggito alla mano distratta di Dio. 24 settembre. «Almeno abbiamo una consolazione», diceva Max col suo sogghigno un po' aspro e goffo. «Laggiù la neve è talmente alta d'inverno che copre le finestrine delle baracche, così farà buio anche di giorno». Si trovava persino spiritoso. «Ma almeno avremo un buon calduccio, non andrà mai sotto zero. E nell'officina ci hanno messo 2 stufe, continuava con entusiasmo. «Quelli che ce le hanno portate raccontavano che si accendono così bene che scoppiano dopo la prima volta». «Potremo condividere tante cose quest'inverno, se sapremo aiutarci reciprocamente a sopportare il freddo, il buio, la fame. E se capiremo che ci toccherà sopportare tutto ciò insieme con l'umanità intera, anche coi nostri cosiddetti nemici. E se ci sentiremo inseriti in un tutto e sapremo di essere uno dei tanti fronti sparsi per tutta la terra. Avremo una baracca di legno sotto il cielo, con letti che provengono dalla linea Maginot, 3 cuccette una sull'altra e niente luce, perché da Parigi continuano a non mandare quel cavo. E quando anche ci fosse la luce, manca comunque la carta per oscurare le finestre». Ho interrotto tutto nel bel mezzo ed è di nuovo sera. Oggi il mio corpo si è comportato in modo odioso. Sotto la mia lampada d'acciaio c'è un ciclamino rosso-rosa. Stasera sono stata molto con esse. Ho sentito improvvisamente un principio di tristezza. Anche questo fa parte della vita. Eppure ti sono così riconoscente, mio Dio. Sono persino quasi fiera che tu non mi nasconda i tuoi ultimi, i tuoi massimi enigmi. Potrò pensarci una vita intera. Ma stasera avevo di colpo tante cose da chiedergli, anche su di lui, tante cose che non mi erano chiare. Ora dovrò trovare le risposte da sola. È una grande responsabilità, ma devo dire che mi sento capace di assumerla. Strano che quando trillerà il telefono non sarà mai più la sua voce, con quel mezzo imperioso, mezzo tenero, stia un po' a sentire. Sarà ben difficile di tanto in tanto. Da quanto tempo non ho più visto Tide? Il mio arricchimento di questi ultimi giorni, gli uccelli del cielo e i gigli del campo, e Matteo 6:33. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in sovrappiù. Domani un appuntamento con Ru Cohen al Café du Paris. Sulla Dama van Scheltenplein c'erano 5 persone in camicia da notte e pantofole, e comincia a fare così freddo. Hanno anche portato via una persona ammalata di cancro all'ultimo stadio, e ieri sera hanno ucciso un ebreo nella Van Berle Straat, cioè appena girato l'angolo da qui, perché voleva fuggire. Tanti uomini vengono uccisi dappertutto, mentre io sto scrivendo vicino al mio ciclamino rosso-rosa e alla lampada d'acciaio della mia scrivania. Intanto il mio braccio sinistro riposa sulla piccola Bibbia aperta. Ho mal di testa e mal di pancia. E in fondo al mio cuore ci sono quei soleggiati giorni estivi nella brughiera e quel campo giallo di lupini che arrivava fino alla baracca di disinfestazione. Non è passato neppure un mese. Era il 27 agosto, da quando Job mi aveva scritto: «Eccomi di nuovo seduto con le gambe che penzolano fuori dalla finestra ad ascoltare l'immenso silenzio. Il campo di lupini, ora senza i suoi colori esultanti, è immerso nella luce confortante della luna. Tutto è di una solennità e di una pace che mi rendono muto e serio. Salto giù dalla finestra, faccio pochi passi sulla sabbia soffice e guardo la luna». E poi finisce quella lettera notturna, scritta con la sua calligrafia compatta e fitta su una brutta carta. Capisco che si possa dire: qui si può solo fare un gesto, inginocchiarsi. No, non l'ho fatto, non lo trovo necessario. Mi sono inginocchiato stando seduto sulla finestra e poi sono andato a dormire. È così singolare che quell'uomo sia improvvisamente, quasi silenziosamente comparso nella mia vita, vivo e vivificante, mentre il grande amico, l'ostetrico della mia anima, soffriva nel suo letto e ridiventava bambino. In un momento difficile come questo mi chiedo: che intenzioni hai nei miei confronti, mio Dio? Forse dipende dalle mie intenzioni verso di te. Improvvisamente tutte le pene notturne e le solitudini di un'umanità sofferente attraversano il mio piccolo cuore e lo fanno dolorare. Quante pene voglio prendere su di me quest'inverno? Più tardi viaggerò per i paesi del tuo mondo, mio Dio. Io lo sento in me, questo istinto che passa i confini, che sa scoprire un fondo comune nelle varie creature in lotta fra loro su tutta la terra. E vorrei parlare di questo fondo comune con voce sommessa e dolcissima e insieme persuasiva e ininterrotta. Dammi le parole e dammi la forza. Ma prima voglio trovarmi al fronte, tra gli uomini sofferenti. E poi avrò bene il diritto di parlare. Ogni volta è come una piccola ondata di calore, anche dopo i momenti più difficili. La vita è davvero bella. È un sentimento inspiegabile che non può fondarsi sulla realtà in cui viviamo. Ma non esistono forse altre realtà oltre a quella che si trova sui giornali e nei discorsi vuoti e infiammati di uomini intimoriti esiste anche la realtà del ciclamino rosso-rosa e del grande orizzonte che si può sempre scoprire dietro il chiasso e la confusione di questo tempo. Dammi un piccolo verso al giorno, mio Dio, e se non potrò sempre scriverlo perché non ci sarà più carta e perché mancherà la luce, allora lo dirò piano, alla sera, al tuo gran cielo. Ma dammi un piccolo verso di tanto in tanto. 25 settembre, le 11 di sera. Tide mi ha raccontato di un'amica che dopo la morte del marito le aveva detto: Dio mi ha messo in una classe superiore, i banchi sono ancora un po' troppo grandi. E quando abbiamo parlato del fatto che lui non c'era più e che tutte e due stranamente non sentivamo nessun vuoto, anzi una tale pienezza, Tide si è stretta un momento nelle spalle e ha detto con un sorrisino coraggioso: sì, i banchi sono ancora un po' troppo grandi, ogni tanto è un po' difficile. Matteo 5:23. Se tu dunque stai presentando la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna a presentare la tua offerta. È già successo che galeoni carichi di tesori naufragassero nell'oceano. L'umanità ha sempre provato a ripescare questi tesori sommersi. Nel mio cuore sono già naufragati tanti galeoni e per tutta la vita cercherò di riportare alla superficie una parte dei tesori che ora giacciono sul fondo. Non possiedo ancora gli strumenti adatti. Dovrò fabbricarli dal nulla. Trotterellavo accanto a Ru e dopo una lunga conversazione che toccava di nuovo tutte le questioni ultime, mi sono improvvisamente fermata nel bel mezzo di quella stretta e banale Govert-Flinkstraße e gli ho detto: «E poi, Ru, io ho una qualità così infantile che ogni volta mi fa trovare bella la vita e che forse mi aiuta a sopportare tutto così bene». Ru mi ha guardata pieno di aspettative e io ho detto, come se fosse la cosa più naturale del mondo, e non è forse così: «Sì, vedi, io credo in Dio». Sembrava un po' sconcertato. Mi ha guardata in viso come se cercasse qualcosa di misterioso. Ma poi credo che fosse molto contento per me. Forse è per questo che mi sono sentita così raggiante e forte per il resto della giornata. Perché ho detto così di getto, così semplicemente, in mezzo a quel grigio quartiere popolare: «Sì, vedi, io credo in Dio». È un bene che io sia rimasta qui per qualche settimana. Tornerò laggiù rinnovata e rinvigorita. Non ho avuto un vero senso comunitario. Ho fatto troppo i miei comodi. Certo che avrei potuto andare a trovare quei vecchi Budenheimer invece di sbrigarmela col pretesto che tanto non potevo fare niente per loro. E così ci sono altre cose in cui ho mancato. Ho cercato troppo il mio piacere. C'erano due occhi in cui guardavo troppo volentieri alla sera nella brughiera. Era molto bello, ma ho mancato in tanti modi, anche verso le ragazze della mia camerata. Di tanto in tanto buttavo loro qualche briciola di me stessa e poi scappavo di nuovo via. Non era ben fatto, però sono riconoscente che sia stato così e sono anche riconoscente di poter riparare al malfatto. Credo che ritornerò laggiù più seria e concentrata e meno alla ricerca del mio piacere. Se si vuole influire moralmente sugli altri, bisogna cominciare a prendere sul serio la propria morale. Io saltello qua e là con Dio come se fosse una cosa da nulla, ma dovrei vivere conformemente. Non ci siamo ancora. Non ci siamo proprio ancora. A volte mi comporto come se fosse già tutto risolto. Sono frivola e faccio i miei comodi. Spesso vivo le cose più da artista che da persona seria. Ho anche un lato bizzarro e capriccioso e avventuroso. Ma mentre me ne sto seduta a questa scrivania, alla sera tardi, sento che in me C'è anche una grande, crescente serietà, una forza che spinge e indirizza, una tacita voce che mi dice cosa devo fare e che mi fa scrivere molto schiettamente: ho mancato in tanti modi, il mio vero lavoro deve ancora cominciare. Finora è stata soprattutto Spielerei. 26 settembre, 9:30. Mio Dio, ti ringrazio perché ho potuto conoscere così pienamente una delle tue creature, anima e corpo. Mio Dio, devo lasciarti più fare. E non devo neppure metterti delle condizioni, purché io stia bene. Anche se non sto bene, la vita non continua forse ad andare avanti e nel modo migliore? Non posso certo avere delle pretese e non le avrò. Ed ecco che, nel momento in cui ci ho rinunciato, anche il mio mal di stomaco è migliorato parecchio. Stamattina presto ho sfogliato i miei diari. Mille ricordi mi sono venuti incontro. È stato un anno immensamente ricco. Inoltre, ogni giorno porta una nuova ricchezza. E ti ringrazio perché mi hai concesso tanto spazio da poterla accogliere tutta. Mi rendo conto sempre di più che Rilke è stato uno dei miei grandi educatori in quest'ultimo anno. 27 settembre. Che si possa essere un fuoco così sfavillante. Tutte le parole ed espressioni adoperate sinora mi sembrano grigie, pallide e scolorite, se paragonate all'intensa gioia di vivere, all'amore e alla forza che si sprigionano ora da me. Il mio fratellino, pianista 21enne, mi scrive da un manicomio, nell'ennesimo anno di guerra. Annie, anch'io credo, so che esiste un'altra vita. Credo persino che certe persone siano in grado di vederla e di viverla anticipatamente. Quello è un mondo in cui gli eterni sussurri mistici si sono fatti viva realtà e in cui gli oggetti e le parole comuni hanno acquistato un significato più alto. È probabile che a guerra finita gli uomini saranno più ricettivi a quella realtà, che l'umanità intera sarà compenetrata di un ordine superiore. E se anche io distribuissi tutti i miei beni a sostentamento dei poveri e non avessi l'amore, tutto questo non mi servirebbe a niente. Tu non hai più da soffrire, uomo viziato. Io invece posso resistere bene a quel po' di freddo e di filo spinato e continuo a farti vivere. Faccio vivere la parte immortale di te. È curioso come una persona si ritrovi poi sempre con qualcosa di materiale. Tide mi ha dato il pettinino rosa di esse. In fondo non voglio neppure avere delle fotografie sue e forse non pronuncerò mai più il suo nome, ma quel brutto pettinino rosa rotto con cui l'ho visto pettinare i suoi radi capelli per un anno e mezzo è ora nel mio portafoglio, tra i miei documenti più importanti, e sarei disperata se dovessi mai perderlo. Una persona è proprio uno strano essere.